Buongiorno Maria Teresa. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Parlo con Nicoletta o con Debora? Buongiorno Nicoletta, ma è proprio lei al telefono? Sì. Visto quello che succede da voi. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Piacere di sentirla. Anche per me, grazie Cristiano. E a me non mi saluta, Cristiano? Non mi ricordo il suo nome. Bello. Dottor Gargiulo, ma è davvero lei a dirlo? Buongiorno. Lei non è Sant'Antonio da Padova? No, io sono Gianni. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani. No! No! No! Valigia sul tapiro lancio fa, le vogliamo salutare per sempre? Solo perché aveva subito un furto in appartamento, chissà chi se credeva DS. È venuto da me, mi ha detto, ah, oh, lo sai, io ho subito un furto in appartamento. E ci auguriamo che siano stati assicurati, sì, che abbiano stipulato delle polizze e di polizza o di polizze parliamo oggi. Iniziate subito a comporre il nostro numero verde 800 24 0024. E se sul tema polizze, sul modo migliore per assicurarvi, non avete le idee chiare, domani in edicola con il Sole 24 Ore potrete trovare il dizionario della vita pratica, la tua polizza, come proteggersi dagli imprevisti quotidiani. Ma cara la mia amica, non tutto può essere assicurato, no. Lo sappiamo bene, le assicurazioni infatti ad esempio non tutelano la rottura, no, di un fidanzamento, potremmo... che... un tradimento. Insomma, a queste, tutti questi imprevisti dobbiamo far fronte noi con le nostre forze. E il problema è che un amore che finisce, un trasloco, un problema al lavoro, come tutti gli imprevisti, piccoli e grandi, e alla fine minano il nostro benessere. E sarebbe interessante iniziare a capire come si reagisce. C'è chi si stressa, chi si abbatte, chi si irrigidisce, chi si tramortisce, chi avverte tutto a livello fisico, chi invece più a livello psichico ed emotivo. Oggi, parlando di imprevisti, vogliamo farci dare una mano dal nostro dottor Attilio Speciani, che per noi non è un imprevisto, è una garanzia. Grazie, buongiorno. Grazie, infatti non faccio pagare nessun premio assicurativo per questo. Allergologo e immunologo clinico a Milano. Dottore, benvenuto. Beh, è piacevole. No, il tema è importante perché da immunologo esiste proprio la notazione di capire come l'immunologia è un ponte tra la parte psichica e la parte fisica. Quindi è sempre uno, i linfociti sanno mediare tra l'uno e l'altro, parlano lo stesso linguaggio, quindi è un tema che oggi ci appassiona. Quindi non è solo questione di carattere, è ormai dimostrato che quello che si prova a livello mentale ed emotivo si paga in termini di salute. C'è chi diventa triste, c'è chi ha mal di testa, chi inizia a mangiare di più, a mangiare di meno, chi non recupera bene con le ore di sonno, quindi ha questi sonni disturbati che alla fine minano il benessere, proprio perché chi non dorme bene poi al mattino si trascina. Insomma, oggi mi piacerebbe capire con i nostri ascoltatori che cosa succede quando si manifesta, c'è un imprevisto e che dovete in qualche modo metabolizzare. Dove avvertite di più le ricadute di questo trauma, piccolo o grande, a livello fisico, a livello mentale o su entrambe queste due famose medaglie di cui noi siamo, lati delle medaglie di cui siamo composti? 800 24 00 24. Dottor Speciani. Ma la cosa è estremamente intrigante perché adesso io ho qui un lavoro che ho proprio scaricato l'altro ieri da internet, appena pubblicato su una importantissima rivista allergologica, addirittura è il fatto che lo stress emotivo, l'ansia, la preoccupazione, una prova, come dire, di carico che viene fatta, è stata fatta anche in laboratorio, addirittura cambia l'esito dei test per le allergie fatti sul braccio, quelli che tutti conosciamo, i prick test, no? Che uno li fa e dice, oh beh, questo è certo che così ho un'allergia a questa sostanza. In realtà, sotto stress, acuto, dopo una notizia drammatica, dopo un imprevisto, dopo una prova rielaborata in laboratorio, cambiano i dati dell'allergia. Quindi questo per dire come davvero una condizione di questo tipo può cambiare. E forse per dare una chiave di lettura duplice anche ai nostri ascoltatori, abbiamo due elementi differenti. Uno che è legato ad uno stress acuto, quindi sono tutti gli elementi diciamo in cui può venire qualcosa di forte, immediato, improvviso, legato ad una immediatezza di azione sul sistema adrenalinico, sulle reazioni difensive dell'organismo. E poi c'è quello legato invece, e molte persone rispondono a questo tipo di immagine, ma hai parlato prima della gastrite, di fenomeni irritativi a livello intestinale, la colite stessa che può essere un'espressione, la mancanza di sonno. E poi ci sono invece dei fenomeni che si innescano con una latenza un pochettino più ampia, quindi a distanza di qualche giorno, e che sono legati alla funzione sulla corteccia surrenale, quindi possono addirittura entrare in connessione con patologie anche gravi, la perdita di situazioni di controllo. Su questo io devo dire, cito, e mi fa piacere citare la Montalcini, Rita Levi Montalcini, che ha preso un Nobel proprio per lo studio delle sostanze che vengono prodotte nell'organismo a seguito non di uno stress del tipo lavoro dalle 4 del mattino a mezzanotte, che è uno stress acuto improvviso, ma di fronte agli imprevisti veri. Lei li chiamava i cambi delle priorità vitali, i lutti, i tradimenti, i disamori. Quindi vedi, Deborah, quando noi diciamo si somatizza, e diciamo somatizzo quasi un po', no? Come per dire, beh, ci credo e non ci credo. In realtà è dimostrato. Ah, in realtà, devo dire ad onore del vero che mio papà lo diceva anche 20 anni prima della Montalcini, però era stato trattato male. Allora, quando il mio papà era vivo, non si sapeva neanche che i linfociti erano in contatto col sistema nervoso. La Montalcini ha vinto il Nobel su questo tipo di aspetto, ed è proprio, io la cito spessissimo, perché? Perché esattamente questo, cioè la parte psichica non è una parte staccata dalla parte fisica, ma è una parte profondamente integrata con questa, e una interferisce e influenza l'altra. Torniamo per un attimo allo stress. Lei ha parlato di stress acuto e di stress cronico. Bene, anch'io ho portato una ricerca, l'abbiamo letta insieme con Deborah, ci è piaciuta e volevamo farla sentire agli nostri ascoltatori. È una ricerca che arriva dalla Germania e che ci dice che lo stress è contagioso. Per questo, quando io sono troppo stressata, Deborah dice vattene un po' più lontana, e faccio anch'io lo stesso. Esatto. Deborah, siccome mi lampeggia in fronte. Ecco, prendiamo le distanze per non contagiarci. Andiamo a sentire. Uno studio pubblicato sulla rivista Psychoneuroendocrinology, firmato da ricercatori tedeschi, afferma che basta osservare una persona stressata per dover fare i conti con un aumento dei livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Ma c'è di più. Se tra l'osservatore e l'osservato c'era un rapporto intimo, i casi in cui il cortisolo aumentava erano pari addirittura al 40%. Tuttavia, un aumento dei livelli dell'ormone dello stress sono stati osservati anche nel 10% dei casi in cui la persona osservata era un perfetto estraneo. Infine, il cortisolo è risultato aumentare sia quando l'osservatore assisteva in diretta, attraverso uno specchio, alla situazione di stress cui era sottoposto l'osservato, in particolare nel 30% dei casi, sia attraverso l'osservazione di un video, 24% dei casi. Dottor Speciani, allora bisognerebbe circondarsi di persone non stressate, ma allora bisogna andare a fare gli eremiti, perché chi più chi meno siamo tutti sotto stress. Diamo una lettura piacevole di questo tipo di lavoro che è stato pubblicato. Tra l'altro la Veronica Engert, che ha pubblicato questo articolo, è del Max Planck Institute, quindi sono di Lipsia, sono quadrati, la cosa bella vuol dire che ci ha promosso, Deborah, perché vedi che abbiamo riportato uno studio che piace anche a lui, quindi, il che non è facile. Ha messo in circolo un flusso positivo questa mattina. Ma la cosa fondamentale è, io direi di leggerlo da quest'ottica, anzi poi vi farò un riferimento dello stesso tipo di lavoro, che è che la parte di comunicazione, di socializzazione è fondamentale per la nostra esistenza. È una chiave di lettura in cui vedrei proprio solo il positivo di questa cosa, che esiste la comparazione compassione, esiste la simpatia, nel senso di simpatico. Esatto, quindi soffrire soffro o percepisco le stesse tue emozioni, e questa cosa è parte dell'essere umano. Io ne cito una per dare un'indicazione, che è un articolo che ancora Eurosalus ha riproposto ancora nel 2007, ma era simpaticissimo, ed è un lavoro fatto invece questo negli Stati Uniti sul fatto che chi si circonda di persone paffute tende a diventare paffuto. Questo è tirato fuori dallo Framingham, che cioè vedi, no, io sono a posto perché sono qui tra due, sono tra due asciutte quindi vuol dire che io diventerò alta come Deborah e io magra come Nicoletta. Molto bene, molto bene, mi piace questa trasferimento. Però il tema è forte, perché richiama sul sociale, sulla condivisione, sul fatto che l'essere umano è fatto per non solo per stare da solo, come ogni tanto i maschietti fanno, scendono nella loro grotta, ma per ridono, sì, però per condividere, grotta. Per condividere. Vogliamo tornare ai nostri imprevisti, certo. E ne parliamo con Leonard, che ci chiama da Parma, perché vogliamo capire come reagiamo agli imprevisti. Non ci sono assicurazioni per una serie di imprevisti che capitano a tutti nel quotidiano, speriamo non tanto gravi. Noi possiamo attrezzarci, ma per attrezzarci che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di capire, e magari condividere con noi, chiamando il nostro numero verde, dove metabolizziamo, come metabolizziamo quell'imprevisto, più a livello fisico, più a livello psichico, su entrambi i fronti. Leonard, buongiorno e benvenuto. Buongiorno anche a voi, grazie. Niente, io ho un problema che quando mi capitano gli imprevisti mi agito psicologicamente, mi colpisce subito lo stomaco o la pancia, adesso non so se uno dei quali dei due, e mi fa correre in bagno. Sì. E perdo tanti di quei chili in questa maniera. Ed è un fastidio, un grosso disagio. Allora, volevo reclamare questa mia... Sì, che però Leonardo mi sembra un classico, soprattutto adesso non posso più dirlo, ma diciamolo, ad esempio agli esami... No, non lo dico, perché è tua e quindi ad non esempio, te la voglio rubare. Dottor Speciani, la cagarella degli esami. Eccola là. Gli esami non è un imprevisto, ma ci si confronta con quell'agitazione che prende quando ci sediamo davanti ad un interlocutore, che può essere un professore, un esaminatore. Di qualunque tipo, cioè con la cui di lavoro magari, no? Esatto, io direi che questa ad esempio è una di quelle tipiche situazioni in cui si è anche in grado di fare una sorta di assicurazione preventiva, nel senso che la tipica posso dirlo, il cagotto, come si diceva, da stress. Anche lei. Non potevate essere più chiari, siamo chiari stamattina. Abbiamo capito esattamente questo tipo di situazione, e in realtà è parzialmente controllabile, nel senso che questo avviene anche perché c'è una perdita, quando esiste uno stress prolungato nel tempo come la preparazione dell'esame, di alcune vitamine, particolarmente la vitamina B viene dispersa, è una vitamina che si perde sotto stress, e in quel caso è vero che una migliore attenzione, ad esempio, ad un apporto di alcuni integratori di vitamina D può aiutare a riportare le persone in una condizione di maggiore, come dire, si aumenta la capacità, come migliorare l'ammortizzatore di una moto. Cioè noi gli diamo maggiore pressione, anche di fronte ad uno stress siamo in grado di resistere meglio. Quindi vitamina B contro lo stress. Questo è uno degli elementi fondamentali importanti. Sappiamo che sotto stress vengono consumate quantità enormi, tant'è che alcune vitamine, la vitamina B1, la B6, sono proprio elementi cardinali di questo, l'acido folico stesso, sono elementi cardinali della possibilità di tenere botta, come si dice, no? Possiamo tradurre questa sua informazione in una, tra virgolette, prescrizione? Sì, direi che intanto alcuni elementi tipici della vitamina B sono quelli che i medici spessissimo prescrivono, ad esempio dopo un trattamento antibiotico, e si danno o probiotici o integratori di vitamina B. E dal punto di vista alimentare devo dire che citerò alcuni elementi che contengono vitamina B, che sono tutte le foglie larghe, quindi l'insalata, le bietole, le verze, verde o rossa che sia, l'insalata è un ottimo contenitore, le carni sono degli ottimi contenitori di vitamina B, ma direi torno nel mondo vegetale e cito le nostre amiche, i nostri semi oleosi, quindi mandorle e noci, che sono degli ottimi integratori dello stesso tipo. Suggerisco però ad una persona che ha questo tipo di reattività, ad esempio, di assaggiare se esistono delle ipersensibilità alimentari, cioè che ti mantengono infiammato, per cui spessissimo i fenomeni colitici sono più presenti in chi magari qualche problemino col latte ce l'ha, e allora a quel punto, anziché bersi il cappuccio brioche prima di andare a fare l'esame, ecco che magari la scelta di un latte alternativo potrebbe a volte essere utile. Ci sono tanti messaggi per lei, dottor Speciani, glieli sottopongo, e sono tutti sono stressatissimo. Tutte donne stamattina. Hanno del buon gusto. Elisa, sì. Elisa ci scrive: il trauma lo accuso subito allo stomaco intestino, quindi ribadiamo un po' quanto già detto. Anche quando sono esaltata per qualcosa, lo vivo e sento sempre in questi organi. Ascoltando la pancia capisco abbastanza bene se una cosa va bene o no, e poi è tutto da vedere se riesco a seguire il consiglio del mio fisico. Silvia invece ci scrive: con uno stress emotivo riduco drasticamente l'alimentazione, divento iperattiva fino a quando non metabolizzo o risolvo, se si può, la situazione. Che lettura diamo di queste due situazioni? La prima nostra lettrice, ascoltatrice, direi che tocca un tema caro a Nicoletta, che lo richiama spesso, che è quello del secondo cervello a livello intestinale, e quindi in realtà non fa che riproporre esattamente questo tipo di logica. Noi sentiamo con la pancia, veramente la nostra parte intima profonda è una delle parti che non va, a cui non va data una dominanza, va data un esatto equilibrio con la parte cerebrale, con la parte encefalica. La seconda, di Silvia, merita una riflessione particolare, nel senso che Silvia evidentemente nella sua storia ha sempre avuto la possibilità di reagire cessando il rapporto col cibo, mettendosi in attività finché il problema non si risolve, e di solito questo porta, ad esempio una lieve sospensione dell'assunzione alimentare, porta ad una migliore lucidità mentale per un certo periodo. Va letta con cautela il fatto che a volte molte crisi nevrotiche, molte slatentizzazioni diventano, una persona dice: mi metto a digiuno, smetto di mangiare perché sono stressato, e poi la soluzione verrà. Noi dobbiamo avere magari quegli uno o due giorni in cui possiamo avere anche questo tipo di risposta, e poi ricordarci che il cervello, il cuore e la pancia funzionano se sono nutriti, senza perdono la loro capacità di agire in maniera corretta. Quindi l'attenzione che pongo rispetto ad un'indicazione della Silvia è: bravissima, lasciati un paio di giorni di questo tipo di attività, se li supera ricordati che rischi di entrare in una situazione di tipo cronico che può diventare ancora più deleteria. Ma vorrei parlare anche della situazione opposta. Ci sono persone che quando sono particolarmente stressate mangiano in continuazione, mangiano molto di più, come infatti si parla di fame nervosa, dottor Speciani. Assolutamente, è un po' l'elemento che nasce, come prima si diceva, si consuma la vitamina B, vengono anche consumate tutte le energie prontamente disponibili. Quindi c'è da parte dell'organismo una richiesta di gratificazione che passa attraverso di solito i meccanismi che abbiamo a disposizione, lo zucchero fondamentalmente. E lì veramente entra una sorta di loop, di circolo vizioso pazzesco. Per questo motivo lo zucchero ci dà una gratificazione immediata e anche, si è visto benissimo sui bambini, anche un'azione, li chiamiamola analgesica, un po' da ottundimento del dolore. Sì. Benissimo, perfetto. Dopodiché nel giro di 20-25 minuti da quando uno assume zucchero in questa forma si va in ipoglicemia, cioè si ripresenta tutta la situazione tipica di quando uno subisce un insulto emotivo, di quando uno subisce un trauma, e quindi a quel punto dopo 20 minuti uno è rinvogliato a ricercare zucchero o cibi zuccherati. Allora a quel punto nasce talvolta veramente un circolo vizioso che porta semplicemente all'ingrassamento. Ricordiamoci che questa forma di ingrassamento poi è un po' la polizza assicurativa dell'uomo del paleolitico, che però lo zucchero non ce l'aveva a disposizione, cioè come dire: qui c'è un pericolo, è meglio mettere via della ciccia, che non si sa mai che qui si muore di fame, perché era la paura più importante. Oggi la paura più importante non è quella di morire di fame, può essere quella di morire di solitudine, questo sì, ma a maggior ragione serve un atteggiamento positivo, usare le nostre energie per ricostruire quella socialità di cui abbiamo parlato prima, di cui hanno parlato sia i tedeschi che gli americani dei due lavori che abbiamo presentato. Abbiamo Antonio da Foggia e Alfredo da Lecce. Andiamo, sentiamo in Puglia. No, sentiamo i mercati. Però Antonio, no, la saluto. Sentiamolo, ma se vuoi possiamo anche sentirlo. I mercati possono aspettare, perché tanto non ce li porta via nessuno. Sono lì pronti. Noi abbiamo Deborah poi, scusa, ma dove? Noi siamo visto in che abbiamo una botte di ferro. Abbiamo ricomposto la coppia, che per una settimana era un po' scoppiatina, ma adesso sentiamo Antonio cosa vuole raccontarci, visto che la Puglia oggi bussa alla nostra porta. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Inclusive io mi trovavo in auto e ho sentito questo programma. Niente, volevo rappresentare la situazione di mia figlia in maniera molto breve. Mia figlia ha 18 anni e circa due anni fa è stata ricoverata per una pancreatite acuta. Mm-hmm. Quindi c'è stata poi una evoluzione, uscita dall'ospedale e riuscita a risolvere il problema. Negli ultimi tempi però è successo questo, che ha in appetenza e successivamente a questa situazione ha dovuto affrontare i test di medicina che ha superato con ottimi anche risultati. Complimenti. Soltanto che adesso ha paura, la sera piange, ha paura e non sappiamo da che cosa deriva questo stress, se è conseguenza della pancreatite acuta, perché ho visto che ci potrebbe essere anche una connessione con problemi anche tipo gastroenterite eccetera, o eventualmente dovuto allo stress per aver affrontato. Certo, come si dice Antonio, quando no, il pericolo è passato si allentano le tensioni e magari ha questa fragilità. C'è un tema importante quando c'è coinvolto il pancreas, che peraltro è proprio uno degli organi cardinali della gestione della nostra energia, il supporto proprio alla digestione, al miglioramento della digestione, elementi semplici come il masticare con una certa intensità, cioè sentire il gusto dei cibi, sono dati importanti. Però mettiamoci nell'ottica di chi, chiedo scusa, esce da una forma di malattia che ha 18 anni, qualsiasi forma di malattia è un po' impensata perché uno non ci pensa su, no? Certo. E in più fa un test per l'esame di medicina che passa con difficoltà e non sa ancora che cosa succederà, cioè in questo momento è in un'ansia d'anticipazione, per cui ha superato adesso i test di medicina, sono stati fatti, sono stati anche oggetto proprio da Bari, sono nate un po' di turbulenze di tipo giuridico, giudiziario, però quindi siamo in una situazione in cui ha passato l'esame, inizierà a settembre, abbiamo quasi 4-5 mesi di non so cosa succede. E una ragazza di 18 anni che ha avuto una malattia recente, è più che normale che abbia questo tipo di logica. Iniziamo a supportarla, a dirle che viva bene le sue vacanze, poi magari due esami delle feci e un controllo col proprio medico aiuteranno a completare e il un discorso. Po' di vitamina B? Ci vuole, ci sta. Ok. Cuore e denari. È come uno shock. È stato uno shock. E se parliamo di imprevisti questa mattina, delle reazioni fisiche e psicologiche, ma tipicamente se andiamo alle questioni di denari, per proteggersi dagli imprevisti in genere ci si assicura. Le coperture assicurative esistono per ogni esigenza, per la casa, per il capofamiglia, per i viaggi, per costruirsi una pensione, esistono polizze contro gli infortuni, le assicurazioni sanitarie, quelle per coprire le spese mediche. Oggi a partire dalle 11.45 ne parleremo con Dario Focarelli, direttore generale dell'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazione, per capire quali sono gli strumenti assicurativi migliori nel campo sanitario contro gli infortuni e a quali aspetti fare attenzione quando si sottoscrivono questi contratti. Domani molte informazioni le trovate nel nuovo dizionario della vita pratica in edicola con il Sole 24 Ore, ma su questo argomento iniziate a prenotarvi all'800 24 00 24. Sei cresciuta ormai. Sì, e forse è il momento di parlare dei precedenti clinici della tua famiglia. Conosco la procedura. Controlli regolari e autopalpazione. Comincerò da quelli, credo. Bene. E devi cominciare a... Dobbiamo parlarne adesso. Dobbiamo. E se ne parla da tempo e alcuni di noi ne hanno avuto esperienza diretta. Le nostre emozioni giocano un ruolo importante nell'insorgere della malattia, ma anche, attenzione, nella sua cura. Christian Bucaram, che è un giovane oncologo canadese che da anni indaga il legame tra il cancro e il vissuto psichico ed emotivo delle persone, nel suo libro Il potere anticancro delle emozioni afferma che vedere la malattia solo da un punto di vista fisico non è sufficiente. Non è sufficiente nemmeno aggiungere la variabile dell'ambiente. C'è dell'altro, c'è un nesso mancante che concerne proprio la sfera psichica. E anche Bucaram scrive nel suo libro quello che il dottor Speciani ci racconta da tempo, e cioè che il sistema immunitario funziona benissimo quando ci sentiamo in equilibrio, quando tutto va bene, mentre un periodo prolungato di stress dovuto ad un dispiacere, ad una preoccupazione, a un lutto, lo altera, e questo fa sì che il sistema immunitario faccia meno bene il suo lavoro. È come se si lasciassero delle porte aperte agli intrusi, e questi intrusi possono essere anche le malattie. Ne parliamo insieme alla dottoressa Giovanna Luini, medico responsabile della comunicazione scientifica dell'OIEO. Buongiorno dottoressa Luini, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Debora, buongiorno a tutti. Dottoressa Luini, stiamo parlando oggi di imprevisti. E a volte la malattia arriva, no? come un imprevisto. Si è visto che molte delle donne operate di tumore al seno o di tumore all'utero hanno nel loro passato superato, forse non completamente, o hanno subito un trauma emotivo molto forte. Sì, potremmo definirlo un lutto. In realtà noi viviamo come perdita anche gli imprevisti che voi stessi citate, per esempio il trasloco, una perdita finanziaria oppure un vero e proprio lutto. Viviamo queste perdite in modo variabile, il potere delle emozioni esiste ed esistono studi che dicono che i tumori della sfera genitale femminile, quindi tipicamente seno e utero, spesso colpiscono persone che nel passato hanno avuto gravi lutti, intesi come gravi problemi che sono equiparabili a lutti. E quindi le emozioni vissute in un certo modo possono aver avuto un ruolo anche nella malattia fisica. E a proposito di emozioni, se possono in qualche modo essere uno dei fattori che possono portare alla malattia, le emozioni aiutano anche nella cura di questa malattia, lo sapete voi bene allo IEO. Sì, noi ne siamo assolutamente convinti, infatti ogni anno e anche quest'anno il 7 maggio prossimo, mercoledì, riuniamo tutte le donne che vogliono venire da noi, le donne che sono state operate al seno, ma ormai vengono tante donne anche non operate al seno, che raccontano la loro esperienza, tirano fuori le emozioni, tirano fuori le memorie, tirano fuori anche le critiche e noi siamo lì tutti con Umberto Veronesi, con Alberto Ruini che dirige la senologia, con tutti i miei colleghi infermieri e medici ad ascoltare, perché queste donne hanno il bisogno di parlare e di raccontarsi. Peraltro sarà con noi ad ascoltare quest'anno, appunto il 7 maggio, Ferzan Özpetek, e ci saranno persone, ci sarà Wondi, ci saranno scrittori, ci sarà Andrea Vitali, il vostro Andrea Vitali, saremo tutti lì per ascoltarle perché hanno bisogno di parlare. E quindi un invito che è rivolto a tutte le donne, non solo alle donne che hanno incontrato nella loro vita il tumore, ma proprio vuole essere un momento al femminile per parlare anche di prevenzione e sostenere le donne che hanno superato il tumore al seno, si sono confrontate con il tumore al seno, quando noi diciamo che noi donne siamo straordinarie, quando ci alleiamo. Ecco, questo io penso che con Deborah l'appuntamento delle donne IEO del 7 maggio possa essere un'occasione che ci sentiamo, lo ricorderemo di nuovo mercoledì, di suggerire a tutte le nostre amiche. Per iscriversi basta andare sul sito dello IEO, www.ieo.it. grazie dottoressa Luini, grazie mille, grazie, buona giornata, buongiorno. Torniamo in Puglia, sì, perché avevamo in sospeso il nostro ascoltatore da Foggia, se non ricordo male, o da Lecce, Alfredo da Lecce. Alfredo. Vedi che ti eri ricordata. Sì. Alfredo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. A lui succede quello che ogni donna auspicherebbe che succeda nella propria vita, Alfredo, ogni tanto, dimagrire molto rapidamente, dottor Speciani. Alfredo, ci racconti. Esatto, quando mi trovo in situazione di stress, non stress normale, diciamo, niente di particolare, magari anche per lavoro e per un tempo neanche tanto prolungato, tipo 3-4 giorni, comincio a perdere dei chili, proprio chili, non netti. Vorrei sapere in pratica se, cioè, dopo vedo l'organismo li perde, se perde sostanze grasse oppure massa muscolare, poi chiaramente li riacquisto dopo una settimana. Beh certo, io se abitassi a Lecce con quella cucina straordinaria, ad esempio bravo. Anche solo i pasticciotti di Lecce, li conosce? Non male. Ne ho mangiato uno. Allora non è sotto stress in questo periodo. Assolutamente no. Dottor Speciani, torniamo al peso. Ma l'immediatezza è quella di una azione legata, si diceva, allo stimolo adrenalinico fondamentalmente, quindi a questo stress di breve durata. Direi che il tipo di perdita di peso è legato soprattutto ad una sorta di momento di digiuno, perché è un momento di rallentata introduzione. L'adrenalina è un po' come se fosse una sostanza parzialmente eccitante, in un certo senso, quindi mantiene una sorta di senso di non fame, di riduzione dell'appetito. Questo, infatti, la soluzione principale è quella di rendersi conto che bisogna dare un'intenzionalità, cioè la logica è: sto passando un momento di stress e sto andando in down, quindi ecco, sono nella cosa situazione. Faccio? Cosa faccio? Resto a compiacermi in questo down? No. E quindi smetto, non trovo una soluzione, o decido di alzare fieramente uno spadino verso una direzione, pur che sia, in cui vado a dire all'organismo che andrò in quella direzione lì. Bene, ci vado. E allora a quel punto inizio a mangiare, a masticare, a utilizzare determinate sostanze e quindi smetto di perdere nell'ordine, prima la massa magra, che purtroppo si consuma subito, poi la massa grassa che tende a restare un po', e un po' dei liquidi associati. Io voglio le ricette, le indicazioni. Io mi sono segnata la vitamina B. Vitamina B, poi, okay, masticazione, poi. Masticazione e obbligo alla prima colazione. Okay. Evitamento assoluto dei dolci fini a se stessi, cioè il dolce, lo zucchero, deve essere gratificante, ma non bilanciato, non da solo. Quindi voglio dire, do un'immagine critica, ma prendiamo un cioccolatino e avvoltoliamolo col prosciutto. No, scherzo, è proprio per dare un'immagine reattiva. Prendiamo, bisogna mangiare un cioccolatino con dentro 4 mandorle, 2 noci e un pezzo di frutta a fianco, cioè cerchiamo di bilanciare carboidrati e proteine in modo che l'indice glicemico non vada in alto e non ci dia subito un'ipoglicemia reattiva a distanza di poco tempo. Vitamina B, sia come integratore, sia come eventualmente foglie di insalata, noci, semi oleosi, e direi che prima colazione obbligatoria quando uno si sveglia al mattino. Significa, sto cercando di mettere dentro dell'energia nel mio corpo perché voglio andare oltre questo momento di stress. Sono i 5 cardini che possiamo toccare. E noi li riporteremo naturalmente sulla pagina di Cuore Denari. Certo. Non so se dobbiamo andare adesso ai suggerimenti per chi è in viaggio, e chiediamo al dottor Speciale di rimanere ancora qualche minuto con noi, se non ha appuntamenti, se non ha da fare questa quarta d'ora. Con due fantastiche come voi. Ecco, così prendiamo altri 2 ascoltatori, Andrea da Brescia e Marco da Teramo, dopodiché prenderemo anche, come dire, la direzione del settore assicurativo, perché per proteggersi dagli imprevisti qualche volta bisogna tirar fuori qualche soldino e stipulare questi contratti quando convengono, quando bisogna farli. Lo sentiremo tra poco dal nostro esperto. Cuore e denari. Siamo ritornate a Cuore e Denari, dovevamo accontentare 2 ascoltatori, con Andrea da Brescia e Marco da Teramo, appunto per rivolgerle poi al nostro dottor Speciani. Andrea, buongiorno, come somatizza lei gli stress? Buongiorno, sono letteralmente da 2 mesi distrutto da una situazione stressante che ho vissuto per 2 anni lavorativi. Innanzitutto sono un geometra professionista, quindi l'edilizia sta provando una crisi. È vero, importante. Già partendo da questo presupposto. Però ho avuto questa esperienza lavorativa questi ultimi 2 anni che mi sto portando avanti da 2 mesi, l'ho finita da 2 mesi fa, e non riesco a risolverla. Uno stress incredibile, un'ansia prima di fare tutti i lavori che ho incaricato, non riesco più a venirne fuori. Sì, è un momento. Anche dal punto di vista del mangiare, sì, Andrea, una crisi capo sul fronte psichico e fisico. Esatto. Dottor Speciani, immagino che per dare una risposta ad Andrea ci vorrebbe una valutazione, ma io so che lei una dritta riesce a dargliela. Tre spunti fondamentali che venivano in mente anche mentre prima parlava la dottoressa Luini. Una delle cose fondamentali per il nostro sistema immunitario è che funziona benissimo, ma è un po' stupidino, come un PC, come un computer. Ha bisogno di un software, di qualcosa che gli dia un'indicazione. Allora, quando sei in una condizione così critica, in cui tra l'altro la confusione impedisce di trovare una soluzione a breve, e uno dice non riesco a decidere cosa farò adesso nei prossimi 10 anni, troviamoci un obiettivo a distanza percorribile, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, e quindi dice ok, arrivo fin lì e lì punto. Però bisogna alzarsi al mattino con una specie di spadino alzato dicendo io vado lì a fa 4 mesi, mi voglio immaginare in una posizione specifica, e a quel punto deve partire quello che dicevamo prima, cioè una abitudine obbligatoria a pensare al cibo come l'energia. Lei si deve svegliare al mattino pensando che il sole entra dentro negli alimenti ed è l'energia che diventa l'energia che lei può usare per ricostruire una nuova azienda, per ricostruire un nuovo lavoro, per ricostruire un nuovo affetto. Allora, questa parte significa che ha bisogno di masticare al mattino qualche cosa di sensatamente. Le cito le noci perché ormai qui giochiamo alle noci. È il nostro grande cavallo di battaglia. È il nostro sponsor assoluto, noci italiane per sempre. No, ci sono anche quelle estere, ma va bene. Però la logica è di riuscire a tirare fuori l'energia dal sole, e lei lo può fare iniziando a pensare di masticare, di tirar fuori l'energia, di pensarsi operativo a distanza di un po'. Il sistema immunitario funziona in questo modo. E andiamo sì. a Marco che ci chiama da Teramo. Buongiorno Marco. Ciao, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Sarò brevissimo. Bravo. Io sono 25 anni che opero nel mondo dello spettacolo, quindi ogni esibizione insomma sì. Si ripercuote in maniera drastica sul Ma perché lei è un artista? Che lavoro fa Marco? Così sa che noi Io siamo un po' curiosi. Io faccio il cantante, giro un po' per l'Italia. Ma bravo. Questo, Beh, insomma, adesso allora ci deve scrivere una canzone per Cuore Denari e così... Esatto. Bravo. Quindi lei sa che per vivere bisogna essere bravi e tenere su, insomma, testa. Somatizzo, quindi il diaframma, certo. lo stomaco e quindi mm-hmm. l'esofagite da reflusso certo. e tutte queste cose. Volevo sapere, dopo tutto questo tira e molla, insomma, cioè, se veramente ci sono degli effetti collaterali, se, cioè, come diceva lei prima, insomma, paura di qualche malattia veramente seria, allora. Tipo ipertensione o qualcosa. Allora, dunque, diciamo iniziamo due a pensare cose. Bene, che questo già sì, aiuta. Sì, sì, questo esatto. Io direi che intanto scherzando. Mi veniva da riflettere sul fatto che quando una persona è costantemente stressata dal suo lavoro e per 25 anni una riflessione sul fatto di fare qualche cambiamento potrebbe nascere. Se in realtà invece c'è una parte positiva, tocchiamo la parte positiva del suo lavoro, che è la gioia del cantare, la gioia del comporre, la gioia dell'essere comunque in scena, modulata da degli effetti negativi che sono quelli legati allo stress della preparazione di questi eventi, io devo dire che questa cosa, proprio come su una bilancina, da una parte il positivo, dall'altra il negativo, faranno venire anche un po' di mal di stomaco nei momenti di preparazione, ma tutto sommato nei termini del rischio futuro non ci sono grosse controindicazioni. La vera tragedia è quando uno sta vivendo sistematicamente solo elementi negativi. Dalla voce, dal tono, direi anche dal sorriso con cui ci accolti, direi che siano gli elementi positivi che possiamo tenere validi nella sua storia. Benissimo. Quindi vada subito a scrivere una canzone per Cuore Denari e ce la mandi. Esatto, e ci facciamo mettere dentro le parole chiave. Un po' come gli incipit per Cuore, Denari e Vitali, no? Quindi ricordate, ci metterà di dentro scrivere. Cuore e si schiacci i due punti. Ecco. Allora. Questi li diamo, sono sì, due punti diamoli. Situati sull'orecchio, che adesso abbiamo tutti le cuffie, quindi non possiamo farlo vedere, ovviamente. Ma metteremo una foto. 10 secondi con l'unghia su un punto e 10 secondi sull'unghia con l'altro, sono due punti che hanno un'azione immediata di detensione. Io lo uso spessissimo su di me, un punto mi è stato regalato. Quindi non è necessario che ce lo faccia un professionista, no, possiamo fare no, anche no, da noi. Io credo. È un auto. Digito pressione, sono due punti di detensione e di rilassamento. Però noi, se volete saperli, dovete andare sulla pagina di Cuore Denari. Quando? A partire dalle ore? Appena riusciamo a fare la fotografia a un orecchio di Deborina, o la Deborina o la Nicoletta. Metto le mie volentieri a disposizione. Grazie, dottor Speciani. Grazie ci molte. Sarebbero piaciute di più le sue, ma metteremo le nostre. Va bene. Grazie, buona giornata. Lei se ne intende di assicurazioni sulla vita? Insomma, praticamente. Bene. E allora mi calcoli l'aliquota annuale di una polizza a vita di un nostro ipotetico cliente. Per esempio, ecco, questo mio collega. Beh, io il signore non assicurerei, ha già un piede nella fossa. Anzi, sono sicuro che non passerà la notte. Ma come? Come si permette? Visto? No, diciamo che i nostri assicuratori sono sicuramente più gentili e più professionali e comunque oggi la parola d'ordine, lo avete sentito nel corso di tutta la prima parte, è imprevisto e quindi parliamo di assicurazioni, speriamo con un po' più di competenza di quanta non ne abbia dimostrata Renato Pozzetto nel film Il ragazzo di campagna. Nella prima parte della nostra trasmissione abbiamo cercato di capire come difenderci anche da uno stress improvviso, adesso andiamo alle coperture assicurative che possono aiutarci a sopportare un infortunio che può anche impedirci di lavorare per qualche tempo e svolgere la nostra regolare attività quotidiana. Altre coperture assicurative possono invece andare ad aiutare una famiglia a sostenere senza pesare troppo sul bilancio le spese di natura sanitaria, le spese mediche, anche se gli italiani, contrariamente alle popolazioni del nord Europa e alla cultura anglosassone, sarà perché sono scaramantici, sarà anche per colpa della crisi economica che induce le famiglie ad assicurarsi solo se obbligate, per esempio con l'auto, ecco appunto a causa di tutto questo si assicurano poco e diciamo che i tassi di protezione sono molto bassi. È così, dottor Dario Focarelli, direttore generale dell'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazione in Italia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo detto tutto correttamente. Perché gli italiani si assicurano poco? Guardi, ci sono almeno tre cause. Diciamo. La prima è la mancata chiarezza di ciò che offre lo Stato. E gli italiani tendono a pensare, soprattutto nel campo della malattia, che valga ancora quello che valeva per i nostri genitori, e cioè che il sistema sanitario in qualche modo copriva tutti e tutti in ogni momento. Purtroppo questo è meno vero, ma non è dichiarato in maniera esplicita e quindi spesso ci si trova a dover avere spese improvvise e non hai pensato per tempo all'assicurazione. Mm. Poi ci sono anche altre, un altro problema che è relativo all'elevata tassazione che esiste sui premi assicurativi e in generale un atteggiamento meno propenso ad assicurarsi, forse anche per aspetti Tipicamente italiani, scaramantici, culturale. Ecco, infatti. Detto questo, le nostre famiglie purtroppo sono più esposte delle famiglie di altri paesi alla vulnerabilità di eventi accidentali. Un recente studio, non nostro, ma del Censis, stimava che circa il 10% delle famiglie italiane corrono il rischio di povertà a fronte dell'insorgere di una grave patologia, e questo ovviamente non è una... Diciamo che poi negli ultimi anni sono andate alla grande, tra virgolette, le coperture contro la perdita del posto di lavoro. Non è il tema che affronteremo questa mattina col dottor Focarelli. Dopo il giornale radio parleremo delle polizze contro gli infortuni, ma anche quello che si può fare per iniziativa individuale per coprire le spese sanitarie e le spese mediche. Cuore e denari. Parcheggiato col mio camioncino, tirai il freno a mano con questa mano qua, quando lo potevo tirare il freno a mano, e parcheggiai. Ero lì tranquillo, quasi per addormentare, pum! Mi arriva una botta di dietro, ma tremenda! Ho sbattuto la testa nel vetro davanti e sono svenuto. E mi sono svegliato così. Anzi, mi è andata bene. C'è gente rimane cieca, sorda, paralizzata. Hai capito? E mi dovreste dare di più! Mi sono rovinato, anzi, non posso fare più niente, né mangiare, leggere, scrivere. Mi dovreste dare il doppio, il triplo, il quadruplo, perché siete voi assicurazioni. Va bene, va bene. Volevo solo dirle che nel mio mestiere incontro un sacco di imbroglioni. Non è il suo caso, per carità. In effetti Roberto Benigni in questa scena di Gianni Stecchino è un po' imbriglione, lo è, il suo imprevisto se lo è inventato, ma purtroppo gli imprevisti, quelli che capitano a noi, sono concreti, reali, e dobbiamo farci conti, inutile nascondere la, come si dice? Nasconderci dietro un dito, la testa sotto il tappeto, fare gli struzzi, ecco. Insomma, noi dobbiamo pensare che qualche cosa ci può capitare, sì. Però possiamo anche pensarci e organizzarci, come assicurandoci. Ne stiamo parlando oggi, 800 24 00 24. L'invito è di parlarne con noi e con i nostri esperti. Certo, qualcuno starà magari anche toccando ferro, qualche uomo si starà toccando dell'altro, si può dire, però insomma bisogna anche, come diceva giustamente Nicoletta, ricordarci che nella vita qualche cosa può capitare. Allora, se abbiamo una copertura assicurativa è meglio. In corrispondenza dell'ultimo dizionario della vita pratica, in edicola domani con il Sole 24 Ore, parliamo di assicurazione, perché domani si affronta a 360 gradi questo argomento. Ci sono molti campi che si possono naturalmente coprire, c'è cioè chi si assicura contro gli infortuni, soprattutto se si fanno dei lavori che magari richiedono una protezione di questo tipo, che sono particolarmente rischiosi. C'è anche un altro campo che sta diventando sempre più apprezzato dagli italiani, dai lavoratori, soprattutto come benefit riconosciuto dal datore di lavoro. Parliamo delle polizze sanitarie, che sono assicurazioni stipulate privatamente che facilitano l'accesso alle cure sanitarie pubbliche e private in caso di necessità. Stiamo parlando di tutto questo col dottor Dario Focarelli, direttore generale dell'ANIA, l'Associazione delle Assicurazioni Italiane, e sono già pronti anche degli ascoltatori per raccontarci la loro esperienza e le loro richieste. Ma dottor Focarelli, volevo fare con lei un commento proprio sul tema delle assicurazioni sanitarie, di queste polizze, dicevo io, riconosciute in molti casi dal datore di lavoro e molto apprezzate dai lavoratori italiani, perché la sanità costa quando abbiamo bisogno. Sì, abbiamo indagini di mercato che ci dicono che il benefit più apprezzato oggi dai lavoratori dipendenti è appunto quello della polizza sanitaria, e addirittura per i lavoratori autonomi è ancora più importante, certo. Perché molto spesso ovviamente associata alla malattia c'è anche la perdita, diciamo, della capacità, essendo di i datori di lavoro di se stessi devono provvedere a loro anche in questo modo, certo. Quindi è vero, e tra l'altro, diciamo, è un momento in cui c'è un utilizzo molto forte, diciamo, di queste polizze, proprio perché il livello dei ticket e delle compartecipazioni è cresciuto, e soprattutto, e forse cosa più importante da sottolineare, l'aumento delle file d'attesa, diciamo, in molte strutture pubbliche, che rende necessario dover intervenire, diciamo, direttamente pagandosi di tasca propria. Ecco, quindi qualche volta queste assicurazioni sono un po' un lasciapassare per, appunto, non farci fare questo. Più che un lasciapassare, permettono di accedere a pagamento a una struttura privata o anche pubblica, ma con una compartecipazione, e naturalmente quindi rendono possibile fare più velocemente. Senta, diciamo, dottor Focarelli, ammettendo che il nostro datore di lavoro non ci abbia riconosciuto questo benefit e che un padre di famiglia voglia fare per sé, per il proprio nucleo familiare, sono molto onerose, perché qua, come era facile prevedere, questa mattina molti ascoltatori stanno contestando questo aspetto. Costano, non ce le possiamo permettere, per cui, a parte l'aspetto scaramantico che abbiamo citato prima, in realtà qua oggi quella più dirompente è la questione economica. Quanto costano? Abbiamo, allora, come dire, una media. È molto difficile fare una media per le polizze. Ovvio, se vogliamo coprire 2000 necessità, è chiaro che il premio sarà più alto. Naturalmente, diciamo, abbiamo la distinzione generale tra una polizza grandi interventi, cioè che copre, diciamo, gli interventi più importanti. Abbiamo poi polizze che, oltre ai grandi interventi, coprono, diciamo, la diagnostica in generale e le visite specialistiche. E poi c'è un terzo livello, diciamo, quello ancora più importante e costoso, che ha a che fare con denti e occhiali. Naturalmente si tratta di livelli, ognuno molto diversi. In generale, una famiglia, diciamo, che si copre per i grandi interventi, è una famiglia con un figlio, eccetera, il prezzo può andare da 3.500-4.000 euro. Ah, l'anno? Aspetti. 350 400 euro. Ci aveva fatto spaventare, dottor Focarelli. No. Ho dato già il totalone, purtroppo. Se si vuole una copertura totale, sta intorno ai 2.000 euro. Spesso le coperture che coprono anche occhiali, denti, eccetera, quelle possono superare, arrivano addirittura. Sono tutte standard queste polizze, dottor Focarelli, o con il proprio assicuratore di fiducia si può studiare un piano assicurativo che faccia al nostro caso? Per esempio, abbiamo tre bambini, tutti e tre hanno i problemi di vista, e quindi sappiamo che il problema ricorrente per questa famiglia è quello, no? Si può studiare una polizza apposita per questo, oppure, ecco, le coperture sono di carattere standard, generali, quindi studiare la soluzione individuale è complesso? No, in genere le polizze sono di carattere standard. Peraltro, diciamo, lei mi ha fatto proprio l'esempio che è difficile assicurare. Cioè, se io so che i ragazzi hanno problemi di vista, l'assicuratore non ha, come dire, è molto preoccupato, diciamo, da offrire quella copertura che con certezza si verificherà. Quindi in generale sono coperture di carattere diciamo standard. Quello che può succedere, appunto, graduare, come dicevo prima, tra grandi interventi, tipologie standard dell'intervento, però, diciamo, generalmente non viene mai personalizzata, ecco, in maniera però in quel caso possono intervenire, anche in questo caso, però per alcune categorie professionali, ci metto anche la nostra, perché noi abbiamo queste coperture, ci sono i fondi sanitari, no, dottor Focarelli, che magari coprono, per esempio, per una spesa ricorrente, per la montatura nuova degli occhiali. In questo caso certe categorie professionali sono più fortunate e questi rimborsi le hanno. Allora, diverse categorie hanno, appunto, una polizza, una copertura sanitaria che viene offerta dai fondi o dalle casse sanitarie. Naturalmente questa è una fattispecie diversa, diciamo, da quella delle polizze individuali e sanitarie, e viene apposta, decisa dal datore di lavoro e dai rappresentanti sindacali che firmano, diciamo, questo tipo di accordo. Molto spesso queste casse però poi si riassicurano o si assicurano presso gli assicuratori, quindi, diciamo, in realtà le consuetudini, il modo di lavorare e anche i prezzi, diciamo, sono molto simili e dettati, diciamo, dal mercato al mercato assicurativo. Questo, diciamo, in generale. Hanno dei trattamenti fiscali diversi. Se lei fa una polizza sanitaria, non ha diritto alla, alla deduzione ex ante, al tempo stesso però alla possibilità di portare in dichiarazione dei redditi anche il valore, diciamo, di ciò che è stato rimborsato. Quindi è un trattamento fiscale diverso che noi riteniamo sarebbe giusto invece rendere più diffuso. Certo. Sull'esempio che lei faceva degli occhiali, quello che volevo dire è che in generale ci deve essere un evento assicurativo, quindi per esempio il cambio visus è un evento assicurativo. Il solo cambio in quel visus caso, si chiama in gergo professionale. Esatto, cambio visus vuol dire che io prima avevo tre diottrie e adesso ne ho tre e mezzo, diciamo. Allora a quel punto l'occhiale è pagato e comunque non si applica mai la montatura. Diciamo, perfetto, la montatura è a spese se nostre. Vogliamo farne una che costa €2000, sì. Debora si è rifatta la montatura da poco e ne ha scelto una bellissima, molto trasparente, bene. Che le sta molto bene. Grazie. Andiamo ai nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Ti piace Piemonte? Prima abbiamo abbinato la Puglia adesso con due città. Adesso si va in Piemonte, alla nella grande. Nella provincia Granda, a Cuneo, e andiamo poi ad Alessandria. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Andiamo ai pro qua, invece andiamo alle questioni complicate con i nostri assicuratori. No, io volevo solo chiedere come potevo comportarmi. Ci dica. Le racconto brevemente la cosa. Quando sono uscito dal mondo del lavoro, io avevo diritto a una pensione integrativa aziendale. Per la componente di mia figlia invalida al 100%, abbiamo concordato che versassero una somma di circa 100 milioni di lire allora, in capo a me e mia moglie, che al nostro decesso lei avesse una rendita. Io quindi dal 2000 che ho stipulato questa polizza, quindi il versamento allora l'ho visto, quindi non sono riuscito ad avere una rendicontazione, quindi non conosco le regole di valutazione e non io ho paura che alla mia morte questa polizza vada nelle polizze. Ha tutto il diritto di saperlo, Giovanni. Senta, qua siccome sono andato dall'agente generale di Cuneo e non me l'ha fatta avere. Vado dal fondo che era stato liquidato, eccetera. Qua deve intervenire Cuore Denari, sai, Debora. Sì, assolutamente sì, Giovanni. Lei ha tutto il diritto di avere queste informazioni. Io sarei quasi tentata di chiederle in nome dell'assicurazione che non si comporti in maniera trasparente con lei. E questa tentazione me la spendo fino in fondo. Qual è? È la generale di Cuneo. Quindi anche la più grande compagnia italiana. Adesso dobbiamo cercare di capire. Guardi, io vado direttamente che, a loro. Conegliano Veneto, dove hanno il centro del no, assolutamente, c'è un problema, rendicontazione. Allora, Giovanni, dottor Focarelli, la rendicontazione annuale delle polizze mi pare che sia proprio, come dire, il primo gesto che ogni compagnia deve fare nei confronti appunto dei propri clienti. Quale potrà essere mai il problema qua che impedisce alla compagnia di dare queste informazioni al proprio sottoscrittore, al proprio cliente? Guardi, non ho la più pallida idea. La rendicontazione è prevista al 2005 e quindi è chiaramente dovuta. Non ho la più pallida idea di questo caso concreto. Naturalmente non è dovuta, comunque, ecco, l'importante è che lei ci dice se volete, che se volete proverò a aiutarvi. Sì, no, ma assolutamente. No, però è tanto per capire che non può obiettare niente la compagnia, le rendicontazioni vanno fatte e ogni quanto deve avere un'informazione adeguata a questa persona, cioè ogni anno. Ecco. Ogni anno. E quindi Giovanni ci racconta. Ci scriva qualche dettaglio perché Cuore Denari andiamo a Trieste, noi da Cuneo andiamo direttamente a Trieste, però torniamo in Piemonte, Alessandria. Antonino, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, qui anche un'altra questione relativa al funzionamento delle assicurazioni che credo sia diffuso. Antonino, vediamo un po' perché. Credo proprio di sì, sono un neopensionato. Sì? Il 10 gennaio ho avuto un moltissimo incidente. Sul marciapiede una macchina ha sbandato. È stata investita. Naturalmente varie fratture, traumi, eccetera. Sì. Mi ritrovo dopo 4 mesi ad avere chiesto tramite l'avvocato un acconto su quello che mi viene, perché devo subire ancora 4 operazioni, e l'assicurazione mi risponde tranquillamente e mi dice quando chiude la malattia presenta certo. Il conto. L'assicurazione va a consuntivo, è corretto, dottor Focarelli, quindi in questo caso vuole avere la certezza delle spese che Antonino sostiene per rimborsarle in un momento successivo. È sempre così? Allora, diciamo, in generale è buona pratica diciamo, finanziare con un acconto questo tipo di operazioni e questo tipo di situazioni, è buona pratica. Cosa diversa, diciamo, se, il clima, se c'è un contenzioso aperto, ovviamente in una situazione di contenzioso aperto riguardo alla definizione delle responsabilità, riguardo alla definizione, diciamo, degli come si dice, cioè nel caso di in cui nei casi in cui è effettivamente successo. Io, mi pare di capire che Antonino non si sia proprio buttato sotto, sotto quest'auto, no, per cui essendo stato investito, che cosa può essere l'oggetto del contendere? La responsabilità dell'assicuratore, nel senso, quale per esempio, io non so il caso concreto, non posso entrarci, ma se per esempio ci sono due macchine, quale dei due è responsabile? Lui è stato investito su un marciapiede, dice, in ogni caso deve subire altri interventi, ne ha già subiti, avrebbe voluto un acconto da parte dell'assicurazione, che è buona prassi, lei dice, che l'assicurazione dia. È buona prassi che ci sia, diciamo, un tipo di rapporto nel quale, diciamo, l'acconto venga considerato. Però domanda, ma sono in causa? Allora, l'ascoltatore lo abbiamo No, dice di no, perché no, si è assicurato evidentemente per questo, per quale motivo? Era tranquillo, ma adesso inizia a preoccuparsi. Mi sa che ci dobbiamo far scrivere anche da lui, da Antonino. Scriveteci tutti. Allora, ci ha scritto anche un messaggio, chi? Un ascoltatore che non si firma, ma ci scrive: la sanità privata funziona per le malattie non troppo gravi, se stai male davvero, sei anziano, o ti devi rivolgere al pubblico, perché le assicurazioni non intervengono. Sì. Viva la sanità pubblica, dottor Focarelli. Dottor Focarelli, un po' lo diceva anche lei prima. Guardi, noi siamo convintissimi che l'assicurazione privata non debba sostituire la sanità pubblica. Noi siamo convintissimi che questo paese, il nostro paese, ha bisogno di una sanità pubblica universale, equa e al tempo stesso efficiente. Quello che sta succedendo oggi è una situazione un po' diversa, e cioè la sanità pubblica non ha più fondi per offrire tutti i servizi a tutti. Nello stesso sono alcune modo, regioni proprio al dissesto a causa della sanità pubblica, come il Lazio. Al dissesto, come lei dice. Quello che noi diciamo è: mettiamoci intorno a un tavolo, discutiamo in maniera serena di quali sono le coperture che lo Stato ritiene indispensabili, che siano date a tutti. Dopodiché ragioniamo altrettanto serenamente se esistono, diciamo, a fronte di certi livelli di reddito, la possibilità di chiedere una compartecipazione più alta, diciamo, rispetto a altri, facendo salve due cose, appunto, il livello di reddito degli incapienti, prima cosa. Seconda cosa, e altrettanto importante, naturalmente dobbiamo salvaguardare i cronici, coloro che hanno una malattia cronica, infatti, i quali naturalmente avrebbero difficoltà a individuare nel settore privato. Peraltro non sto dicendo cose, diciamo, particolarmente nuove. Un anno fa, di fronte alla difficoltà del sistema sanitario di reperire, si ricorda, 2 miliardi di tagli di ticket, eccetera, il presidente Napolitano disse in maniera esplicita: bisogna trovare un modo, forme di finanziamento diverse, che ovviamente graveranno in maniera più forte su però chi è più sa forte. Lei ha ragione, mentre però il dibattito politico un po' si così intrattiene su questo, le persone poi hanno altre esigenze, quelle del contingente, e sono un po' poco interessate al dibattito, allo sviluppo del dibattito. Io la ringrazio per averci messo al corrente di come vanno le cose. Sentiamo però intanto gli ascoltatori che tipo di bisogni hanno. Walter da Lecce, l'ultima telefonata di oggi, deve essere telegrafico. Walter, grazie. Va bene, buongiorno a tutti. Vi voglio far presente una situazione particolare. Io sono un venditore a provvigione. Ho il problema che, mentre vengo assicurato facilmente causa infortuni, ho molti problemi per causa malattia e invalidità temporanea al lavoro. Io, se non lavoro, non guadagno. Certo. Il problema è che i costi diventano esorbitanti. Evidentemente. Quindi che tipo di proposte le hanno fatto? Che proposte le hanno fatto, Walter? Quindi quanto le chiedono di sborsare? Minimo 600-700 euro mensili. Addirittura? Veramente? Sì. Lei è un lavoratore autonomo, quindi c'è l'assicurazione che le dice: guarda, se vuoi coprirti da questi rischi, il costo che devi sostenere è questo. È chiaro che il vero costo si basa sul fatto che io chiedo di poter avere un reddito nel momento che ho un'inabilità temporanea al lavoro. Certo. Lei è un lavoratore autonomo, immagino, Walter? Sì. Perfetto. Focarelli, altro tema che sicuramente il sistema assicurativo deve porsi, un po' ridimensionare i premi per tutti, il sistema deve allora, essere... Io da 10 secondi, da, grazie. Velocemente, non mi ritrovo nelle cifre che ha portato l'ascoltatore, mi piacerebbe confrontarle. Certo. Noi abbiamo in mente cifre riguardo alle diarie che si associano alle situazioni di infortunio molto più basse. Walter ci scriverà, dottor Focarelli, purtroppo abbiamo terminato. Grazie a tutti, ci sentiamo Nicoletta domani. Domani. Grazie. Cuore e denari.